stars. My heart shine like a burn. Tutto trafelato, le burrasche di pollo frisbee. Si precipita verso Dio, teme d'essere in ritardo, piange. Ascoltate, si accendono le stelle. Vuol dire che qualcuno ne ha bisogno. Vuol dire che qualcuno vuole che esse siano. Vuol dire che qualcuno chiama perle questi piccoli sputi. È tutto trafelato fra le burrasche di polvere meridiana. Si precipita verso Dio, teme d'essere in ritardo, piange. Gli bacia la mano nodosa, supplica che ci sia assolutamente una stella. Giura che non può sopportare questa tortura senza stelle. E poi cammina inquieto fingendosi calmo. Dice ad un altro: ora va meglio, è vero? Non hai più paura? Sì. Ascoltate, si accendono le stelle. Vuol dire che qualcuno ne ha bisogno. Vuol dire che è indispensabile che ogni sera, al di sopra dei tetti, risplenda almeno una stella.